Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. La censura è per definizione il controllo della comunicazione o di altre forme di libertà, quella di espressione, di pensiero, di parola, da parte di un'autorità. Si può dire che la censura esista dall'inizio dei tempi perché i governanti si sono sempre occupati di vigilare sugli spettacoli e sulle manifestazioni artistiche ed espressive in modo che non superassero i limiti del cosiddetto comune senso del pudore. Naturalmente il concetto è piuttosto arbitrario, dipende dal livello di tolleranza politica, dall'influenza della religione di Stato, dal generale clima culturale e dalle convinzioni morali dominanti. Per il cinema in particolare, praticamente tutti gli stati del mondo hanno creato apposite commissioni di censura con il compito di visionare i film e, se ritenuto opportuno, escludere i minori, oppure imporre preventivamente o a posteriori una proibizione totale o parziale alla visione nelle sale. Sono i famosi tagli. In Italia cominciano nel 1913, gestiti dalla prima istituzione ad hoc, mentre in alcuni paesi, Gran Bretagna, Germania e Giappone in testa, è la stessa industria cinematografica ad autocensurarsi. Impossibile non citare negli Stati Uniti il codice di autoregolamentazione Hays, che prende il nome dal suo ideatore, con il quale, alla fine degli anni 20 e per i successivi 30, registi e sceneggiatori si vedono imporre limiti ben precisi alla loro creatività. Oggi la censura è certamente meno rigida, ma chi l'ha vissuta fin dagli anni 60, come il maestro del cinema erotico Tinto Brass, sa bene di cosa parla. All'epoca la censura, la legge era diversa, poteva entrare nel merito dei film, adesso solo si limita al buon costume, all'offesa al buon costume, il pudore, non si capisce cosa sia, insomma, questo dovrebbe essere l'intervento della censura per stabilire i minori, o i 18 anni, all'epoca non interveniva proprio nel merito, ma insomma io sempre ho detto, ma c'è qualcuno che ha detto che ha avuto problemi con le censure e anche con la magistratura, poi anche, a parte anche con i produttori, qualcuno ha detto che ha avuto più incidenti di percorso che Niki Lauda sui circuiti di Formula 1, insomma. Ogni film era una battaglia, insomma. 1941, la cena delle beffe di Alessandro Blasetti. È il primo seno nudo del cinema sonoro italiano. Clara Calamai suscita la reazione scandalizzata della Chiesa e il film viene vietato ai minori di 16 anni. 1962, Boccaccio 70. Quattro episodi ispirati alle novelle ma ambientate negli anni del boom economico. Quattro anche i registi, De Sica, Fellini, Monicelli, Visconti. Il film viene presentato a Cannes fuori concorso. Ma siccome il produttore taglia per l'estero l'episodio di Monicelli, gli altri tre decidono di non presentarsi per solidarietà. 1971, Arancia meccanica di Stanley Kubrick. I drughi sono una banda di teppisti capitanati dal violento e sadico Alex. Quando il film esce nelle sale, al regista arrivano lettere minatorie. Divieto sotto i 18 anni perché è troppo violento. Nella TV italiana, in chiaro, ma in seconda serata, arriva solo nel 2007, 36 anni dopo l'uscita. Scusa, fratello, l'ho ordinato 2 settimane fa. Vuoi vedere se è arrivato, per favore? Momento, prego. Cosa c'hai dove abiti, sorellina, per ascoltare i tuoi tremuli piatti sonori? Scommetto che è solo un povero piccolo patetico portatile da picnic. Venite dallo zio a sentirli per bene. Oh, gli arcangeli con le trombe e i diavoli coi tromboni. Ambe due siete invitate. Il 1974 è l'anno del Portiere di notte di Liliana Cavani. Maximilian, ex ufficiale delle SS, e Lucia, sopravvissuta a un campo di concentramento, si incontrano 13 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale e iniziano una torrida relazione basata sul sadomasochismo. Charlotte Rampling, seminuda con le bretelle e il cappello da ufficiale, entra nell'immaginario erotico mondiale. Nel 1975 è la volta di Salò o le 120 giornate di Sodoma di Pierpaolo Pasolini. La pellicola, intrisa di violenza e perversione, all'inizio ottiene il visto della censura, ma dopo poche settimane se lo vede sequestrare. 9 settimane e mezzo, diretto nel 1986 da Adrian Lyne, esce invece in due versioni, una vietata ai minori e una solo per l'home video, ripulita delle scene più hard. È tardi. No, voglio dirti una cosa. Io sono stato con tante donne, con tante altre. Ma quello che ho provato con te non l'ho provato con nessun'altra. Mi piacerebbe tanto stringerti per farti sentire quello che mi sta succedendo dentro. Non mi era mai capitato. Non ho mai amato così tanto. Siamo andati oltre, uno di noi due doveva dire basta. Tu non l'hai mai detto. E io forse ho aspettato troppo. Film vittime della censura non si contano. Le motivazioni sono sostanzialmente legate ai contenuti espliciti, soprattutto per quanto riguarda la violenza e il sesso. La critica Alessandra Comazzi precisa la questione con queste parole. Non che la censura non sessuale non sia esistita mentre esisteva quella sessuale. Poi però la censura politica è esplosa e la liberazione sessuale l'ha controbilanciata. Eppure, anche nel 1972, quando ormai i costumi si sono allentati e la morale non è più rigida come una volta, c'è una pellicola che fa scandalo come mai nessuna aveva fatto prima. Paul, un americano trapiantato a Parigi, affascinante e misterioso, dopo il suicidio della moglie, ha perso la sua ragione di vita. Un giorno, vagando senza meta per la città, entra in un appartamento in affitto in uno stabile in via Jules Verne, quartiere Passy, e incontra la ventenne Jeanne, anche lei interessata alla casa. Nelle stanze vuote tra i due sconosciuti, scatta immediatamente la passione. Un incontro obbligato sul set, ma dopo il quale quegli attori non saranno mai più gli stessi. I protagonisti di Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci sono Marlon Brando e Maria Schneider. Marlon Brando, Maria Schneider. Quello che mi fa impazzire è che sei così maledettamente sicuro che tornerò qui. Ma cosa credi tu? Che un americano, seduto per terra, in un appartamento vuoto, che mangia formaggio e beve acqua sia uno spettacolo interessante? Come Anita Ekberg per La dolce vita o Daniela Rocca per Divorzio all'italiana, Maria Schneider è una di quelle attrici che si sono prenotate un posto nella memoria con un solo film. La sua è una vita costellata di dolori che comincia quando sua madre, la modella tedesca di origini romene Marie-Christine Schneider, la dà alla luce nel 1952 in una clinica di Parigi. Non c'è nessun padre che aspetta di prenderla tra le braccia. È solo da ragazzina che Maria scopre di essere figlia d'arte dell'attore francese Daniel Gelin, protagonista del capolavoro di Hitchcock, L'uomo che sapeva troppo e che non l'ha mai voluta riconoscere. Io lo conoscevo perché l'avevo visto in TV e al cinema. Ma quando ho scoperto che mio padre era Daniel Gelin, non ho provato nessun orgoglio. Lui aveva lasciato mia madre sola. Non aveva mai voluto sapere niente di me. E io non lo avrei perdonato per niente al mondo. Irruenta, libertina e provocatoria, quando ha solo 15 anni, decide che vuole diventare un'attrice. Non ha fatto nessun corso e nemmeno sente di averne bisogno. Forse più che farlo per sana passione, sta cercando una strada per dimostrare a suo padre quanto vale, per farlo pentire in qualche modo di non averla voluta crescere. A volte più ancora dell'esperienza e dello studio conta la determinazione, e questa di certo a Maria non manca. Incomincia dai piccoli teatri, dove le danno parti minori, ma lei si rimbocca le maniche e non dice mai di no. È un'adolescente profondamente inquieta, con problemi psicologici, confusa sulla ragazza che è e sulla donna che sarà. Ma piano piano, con l'irrequietezza, impara a convivere. Con una madre sola, in grado di mantenerla grazie a lavori saltuari, si è abituata presto a vivere alla giornata, senza preoccuparsi di quello che gli altri avrebbero potuto dire. Non mi è mai importato niente di quel che pensa la gente. Tanto per gli altri non fai mai la cosa giusta. Se ti senti libera di esprimerti, sei una poco di buono. Se rispetti le convenzioni, diventi subito una bacchettona. Tanto vale fregarsene e cercare di sopravvivere. Nel 1968 Parigi esplode con le sue utopie e i suoi ideali. Anche Maria, tra una prova in teatro e l'altra, si lascia travolgere dai ragazzi che si riversano in strada e alzano le barricate. Non può restare a guardare quell'energia che sente vibrare con così tanta forza dentro di sé. Tutti i 68 d'Europa partirono da qui, Parigi, dalle barricate dei quartieri latini della città trasformata in un'enorme piazza rivoluzionaria per i giovani della generazione postbellica che combattevano contro le regole, la morale, l'educazione conservatrice e la repressione sessuale. Era il maggio del 1968, quella rivoluzione sarebbe stata soffocata alcuni mesi più tardi, ma il valore di quella lotta sarebbe sopravvissuto alla storia. Tutto è cominciato come era successo con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, apparentemente provocata dall'uccisione dell'arciduca Ferdinando, dalla classica goccia che fa traboccare il vaso. Henri Langlois, il direttore della celebre Cinémathèque Française, era stato sollevato dal suo incarico con grande scalpore e proteste da parte dei cinefili e degli studenti che affollavano le proiezioni dei suoi film rari e preziosi. Hey Joe. Furiosa con il governo, all'inizio della protesta, la folla scende in strada per difendere un uomo, ma poi per molto di più. Le convenzioni da abbattere, la società borghese da sconfiggere in tutta la sua ipocrisia, la liberazione sessuale. I giovani fondono il cinema con la politica, la musica con il sesso, la droga con la filosofia. Sono i sognatori, quegli stessi dreamers che Bernardo Bertolucci ha descritto nel suo film nel 2003. Sopra la camera di Ginger Rogers. Lei si arrabbia perché lui la scopre. Ho indovinato. Il è bon? Ho indovinato. Tu pensi ce que je pense? Bon d'accord. Oh, mais t'as raison. Perché mi guardate in quel modo? Beh, vedi il mio piccolo Matthew? C'è una cosa che te e io volevamo fare da tanto tempo, ma aspettavamo la persona giusta con cui farlo. E credo che alla fine quella persona sia tu! Per fare cosa? Battere il record di Bonaparte! Quale record? Tu hai visto Bonaparte, giusto? Sì. Ti ricordi quella scena in cui loro tre visitano il Louvre correndo? Vagamente ricordo. Cercano di battere il record mondiale di 9 minuti e 45 secondi. Sì, certo, certo! Batteremo noi quel record. Love me. Maria ama più di qualsiasi cosa la libertà. Lei è una che balla da sola contro tutti quelli che non la capiscono e non la accettano nel suo groviglio di contraddizioni, fragilità e certezze. È una donna onesta che dice sempre quello che pensa e ha la generosità di chi è abituato a non avere niente. Aiuta tutti, forse in fondo per aiutare se stessa e la sua estenuante solitudine. Un giorno le piace una cosa, il giorno dopo non le interessa più. Fa così con gli oggetti e con gli amori. Ma quello che rifiuta sempre è l'obbedienza. Per lei la ribellione è una costante dell'esistenza. Un carattere non facile, tormentato, e sempre in equilibrio precario tra la felicità e la disperazione, che viene però ampiamente compensato dal suo talento. Dicevano tutti che ero impossibile, che con me non si poteva lavorare, che ogni tanto mi rifiutavo di salire sul palco e che alzavo la voce quando qualcosa non mi andava. Ma io sono fatta così, prendere o lasciare. E mi hanno sempre richiamata. La bellezza di Maria Schneider, come d'altronde il suo carattere, non è di quelle convenzionali. Lunghi capelli dai riccioli indomabili, bocca appena disegnata, occhi grandi su un viso rotondo che non le fa dimostrare la sua età. L'aspetto selvaggio che fa contrasto con l'innocenza dei suoi gesti semplici, istintivi, quasi da bambina. E per tutti questi motivi, se Brigitte Bardot la chiama bimbo. Per me, Maria era come una figlia. Non aveva nessuno che si prendesse cura di lei. Perfino sua madre era troppo concentrata su se stessa. E suo padre mi faceva una rabbia. Non ho mai capito come si potesse essere un attore così grande e un uomo così piccolo. Maria aveva a volte un atteggiamento strafottente, ma era solo una corazza. Lei era così fragile. L'indifferenza di Daniel Jelena nei confronti di sua figlia Maria sconvolge letteralmente la Bardot, che non si accontenta di aiutare la ragazzina, indipendente ma pur sempre giovane, sostenendola da lontano. L'accoglie addirittura a casa sua, le dà una stanza, la mantiene, insomma, le permette di vivere per quanto possibile spensierata, come si dovrebbe essere a 17 anni. Brigitte Bardot, icona della femminilità, fin dagli anni 50 non è immune alla depressione. Molti amori, moltissime delusioni. Un tentativo di suicidio quando pochi anni prima si era ritirata per un po' dalle luci della ribalta per rifugiarsi nel sud della Francia. Forse è anche per questo che prende così tanto a cuore la sorte di Maria, perché in lei rivede un disagio che ha già vissuto e continua a vivere sulla propria pelle. Io non sono mai riuscita ad avere un buon rapporto con gli uomini. Non ero serena con loro. Ero considerata un sex symbol e questo immediatamente ai loro occhi faceva di me una pronta a tutto. Non era così, ma poi ti lasci travolgere. Cercavo di spiegarlo a Maria perché sentivo che era così uguale a me. Lei aveva bisogno di me tanto quanto io avevo bisogno di lei. Maria vive con la Bardot per 2 anni ed è qui che una sera, durante una cena a cui sono stati invitati molti grandi del cinema, incontra per la prima volta l'attore Warren Beatty, fratello di Shirley MacLaine. Beatty è un Don Giovanni impenitente al massimo del suo splendore che passa ogni notte con una donna diversa. È riuscito ad accumulare, secondo i calcoli del suo biografo, circa 12.775 conquiste, senza contare i baci rubati, fino a quando, nel 1992, si è sposato e ha messo la testa a posto. Eppure per Maria prova subito un istinto di protezione. Nessuna malizia, nessuna voglia di conquista, soltanto la simpatia per una fragilità palpabile che non si può nascondere, neanche con la sfrontatezza. Non c'è bisogno che lo spinga a farlo Brigitte Bardot. E dopo una serata di chiacchiere in cui capisce che quella ragazza dall'aspetto scompigliato può riservare grandi sorprese, chiama il suo agente William Morris e gli raccomanda la Schneider. Non ero abituata a così tante attenzioni, non ne avevo mai ricevute. All'inizio ho pensato che fosse uno scherzo, che quei grandi attori stessero prendendo in giro una ragazzina solo per divertirsi un po'. Invece no. Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da Morris. Voleva incontrarmi e cominciare a farmi lavorare seriamente. Maria non è del tutto una neofita del cinema. Grazie a un contatto di un vicino di casa, ha partecipato all'albero di Natale di Terence Young, il regista britannico noto soprattutto per 3 dei film della serie cinematografica dedicati a James Bond. Una parte piccola e dimenticabile, ma che le ha fatto conoscere il clima del set, l'atmosfera che si respira tra le scenografie, la sensazione che si prova davanti alla macchina da presa, mentre tutti gli occhi intorno sono puntati su di te e non devi sbagliare. Ha anche affiancato Alain Delon, il divo che in Francia si è conteso per anni lo scettro di sex symbol con Jean-Paul Belmondo. Ma anche Medley, Il piacere dell'uomo, è un'esperienza piuttosto ininfluente nella sua carriera, uno dei tanti tentativi di vedersi aprire le porte del cinema internazionale. Invece va meglio col teatro, dove riesce a esprimere tutto il suo talento. È nel contatto diretto col pubblico che la sua anima prende davvero vita. È negli applausi e le risate che sente il calore umano che le dà la forza per credere nel suo sogno. È brava, bravissima, istintiva, appassionata, ironica, una bomba a orologeria pronta a esplodere. Il suo destino, splendido e maledetto come lei, l'aspetta nelle stanze vuote di un appartamento di Parigi. C'è un appartamento scritto a passivo, voglio andare a vederlo. Dopo vado alla stazione. Sì, arriva Tom, gliel'ho promesso e... D'accordo, è più tardi. Sì, passo da casa, ciao. Sono qui per l'appartamento. Quand on a que l'amour à s'offrir en partage un jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nel 1970 a Parigi, dove una 18enne Maria Schneider sta cercando con tutta la sua forza di diventare una grande attrice. Nella sua vita finora niente è stato facile. Figlia di una modella tedesca e di un padre, l'attore francese Daniel Chelan, che non l'ha mai riconosciuta, ha imparato fin da piccola a cavarsela da sola, mascherando dietro a un atteggiamento spavaldo tutte le sue insicurezze e le sue contraddizioni. Mi sono sempre sentita diversa, nel bene e nel male. Diversa dalle mie amichette, che avevano un padre presente e una mamma attenta, mentre la mia, che si vedeva invecchiare, era più preoccupata a mantenersi bella. diversa dai ragazzi, a cui tutto era concesso. Mentre io, femmina dall'aspetto selvaggio, venivo etichettata come poco di buono qualsiasi cosa facessi. E poi diversa dagli attori, che del loro lavoro facevano una malattia, arrivando a fare qualsiasi cosa pur di avere successo. Maria non ha peli sulla lingua. Dice quello che pensa sempre e comunque, fregandosene dei giudizi degli altri che in fondo semplicemente non la capiscono. Adesso però ha un'amica, che è molto più che una sorella maggiore. Si chiama Brigitte Bardot. Ed oltre a darle ospitalità, le sta preparando gli amici giusti per entrare nel mondo dello spettacolo. Rispetto al cinema, in realtà, ancora non succede molto, ma col teatro invece sì. Maria riesce a esprimere tutto il suo talento, in Francia e fuori. Tanto che cominciano a girare le sue foto, e una di queste, un giorno, la vede il regista Bernardo Bertolucci, che sta cercando giovani ragazze da provinare per il suo nuovo film, Ultimo Tango a Parigi. Quando Maria sale sul palco, di fronte a una platea deserta, con in mano il copione che deve far sentire, il suo sguardo viene catturato dall'uomo che è seduto accanto al regista, il protagonista maschile che è già stato scelto, Marlon Brando. Le emozioni non tradiscono. Maria sente che da quell'incontro, nel bene e nel male, la sua vita verrà sconvolta. Brando era un uomo stupendo, magnetico. Ho capito fin dalla prima volta che l'ho visto che era pericoloso. Il mio istinto mi diceva che mi sarei fatta male. Se Maria Schneider, lunatica e trasgressiva, fa discutere, Marlon Brando mette tutti d'accordo, perché è unanimemente considerato una delle maggiori stelle di Hollywood e uno degli attori più carismatici della storia del cinema. Non che abbia fatto moltissimi film, una quarantina in più di mezzo secolo di carriera sono tutto sommato un numero limitato, ma tra questi, tanti sono dei capolavori indimenticabili. Lo scaricatore di porto Terry Malloy in Fronte del Porto, Marco Antonio nel Giulio Cesare di Mankiewicz, il primo ufficiale Fletcher Christian negli Ammutinati del Bounty, Don Vito Corleone ne Il Padrino, e poi l'inarrivabile colonnello Kurtz in Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Grintoso e determinato, Brando dal cinema vuole ottenere il massimo, e ci riesce. Noi siamo gli uomini cavi, noi siamo gli uomini impagliati, appoggiati l'uno all'altro. La testa piena di paglia. Ahimè, le nostre voci disseccate che bisbigliano tra loro sono sorde e prive di significato, come il vento sull'erba risecchita. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie. La famiglia di Brando, di origini tedesche, olandesi, inglesi, irlandesi e francesi, si sposta in America in cerca di fortuna. Ed è ad Omaha, nel Nebraska, che il piccolo Marlon nasce nel 1924. Figlio di un commesso viaggiatore e di un'attrice di seconda linea, prima di fare l'attore tenta inizialmente la carriera militare, ma indisciplinato e insofferente alle regole gerarchiche che vigono in caserma, viene espulso dall'Accademia Militare del Minnesota. Non ci ho messo molto ad accorgermi che non faceva per me. L'ordine, l'ubbidienza, il rispetto forzato sono tutte cose che non mi appartengono. Io sono libero e per la libertà. Amo la democrazia e la possibilità che ognuno ha di decidere della propria vita. Così, non ancora ventenne e con tutta l'energia della sua età, con i pochi soldi in tasca che gli consentono appena di sopravvivere, Marlon, come tutti quelli che vogliono tentare seriamente di sfondare, si trasferisce a New York. Il suo talento è immediatamente sotto gli occhi di tutti. La sua bravura è indiscutibile e nel 1944 è già l'ora di debuttare a Broadway. Tre anni più tardi c'è il trionfo, con il ruolo di Stanley Kowalski nello struggente dramma di Tennessee Williams, un dramma che si chiama Desiderio, che nel 1951, con la regia di Elia Kazan, diventa il film che lo fa diventare sex symbol. Brando non solo è bello in modo disarmante, ma anche virile e sensibile, forte e ribelle, anticonformista e fascinoso. Tu sei Chad Stanley, sono Blanche. La sorella di Stella? Sì. Oh, ciao. Dov'è la mia moglietta? In bagno. Ah. Da dove vieni, Blanche? Io vivo a Oriol. Oriol? Oriol? Ah, non lo conosco, già, ma è nella mia zona. Come si consuma il liquore quando fa caldo? Vuoi un sorso? No, io lo tocco di rado. Beh, c'è chi l'alcol lo tocca di rado, ma si fa toccare da lui. Elia Kazan, uno dei fondatori dell'Actor Studio, spinge Brando ad entrarci. Se l'esperienza sta già dando i suoi frutti, abbinarla a una scuola così prestigiosa può dare risultati esplosivi. L'insegnamento si basa sostanzialmente sul metodo Stanislavski, poi portato avanti da Lee Strasberg, che è costituito da poche regole, apparentemente semplici, ma dagli effetti unici. 1. L'interprete non deve essere né finto né falso. La massima dote è la credibilità. 2. L'attore deve avere il massimo controllo del suo corpo, delle sue emozioni e delle sue reazioni. 3. La personalità, i sentimenti e i pensieri del personaggio sono da ricercare in se stessi. 4. L'attore deve annullarsi completamente nel personaggio fino ad assumerne l'identità più intima e diventarne l'immagine riconosciuta al di là del film stesso. Marlon Brando fa tutto questo e molto di più. Il suo spessore artistico rende i suoi personaggi vivi. Lui non solo li mette in scena, ma ne amplia le pulsioni interne e psicologiche, anche quelle che in sceneggiatura sono soltanto suggerite. Oggi molti associano il lavoro dell'attore al divertimento, agli stravizi. Non che io mi sia fatto mancare niente, mi sono sempre divertito. Ma fare l'attore è una cosa serissima. Ti devi far carico di una vita che non è la tua e trasmetterla a chi ti guarda. È un lavoro di grande responsabilità, ma io sono stato ripagato da così tante soddisfazioni. È il 1972 e Brando, dopo anni di crollo in cui si è lasciato andare fisicamente, ha lavorato male e ha vissuto dolorosissimi rapporti con le sue donne. Azzecca un ruolo che rimarrà nella storia, quello di Don Vito Corleone nel film Il Padrino di Francis Ford Coppola. Durante il provino, Brando improvvisa il trucco per diventare Don Vito. Capelli tenuti indietro con la brillantina, sfumature di lucido da scarpe su guance e fronte, guance imbottite di Kleenex. Arriva l'Oscar, ma a sorpresa si rifiuta di ritirarlo. Per protesta contro il modo in cui il governo americano tratta gli indiani, manda al suo posto una giovane Sioux. Intanto, Bernardo Bertolucci ha in mente di fare un film su una sua fantasia sessuale, quella di incontrare per strada una bellissima sconosciuta e fare l'amore con lei senza saperne nulla. Maria Schneider e Marlon Brando stanno per vivere quell'ultimo tango a Parigi che cambierà per sempre il loro destino. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux. Destini incrociati. A Destini incrociati è il 1972 e sta per uscire un film destinato a scandalizzare il mondo, Ultimo Tango a Parigi. Il regista Bernardo Bertolucci ha già deciso chi saranno i protagonisti di questa passione travolgente tra due sconosciuti ambientata in un appartamento vuoto in Rue Jules Verne, quartiere Passy. Ha pensato a Dominique Sandat e Jean-Louis Trintignant, che hanno già lavorato con lui per Il Conformista. Ma Trintignant rifiuta e siccome la Sandat rimane incinta, la scelta ricade su Marlon Brando, reduce dalla indimenticabile interpretazione di Don Vito Corleone nel Padrino, e una giovanissima Maria Schneider, provinata dopo aver visto una sua foto, è perfetta per il ruolo di quella Jeanne allegra e disinibita che con cappello e stivali cammina veloce sotto il metrò aereo di Birakeim. Non so come chiamarti. No. Vuoi sapere il mio? No, sta zitta, non dire niente. Io non voglio sapere come ti chiami. Tu non hai nome, io nemmeno, nessun nome. Qua dentro non ci sono nomi, non esistono nomi, capito? Lei è pazzo. Forse lo sono, però non voglio sapere niente di te. Sul set non c'è spazio per le chiacchiere e le distrazioni. Brando e la Schneider, nudi per la maggior parte del tempo, si accorgono che stanno facendo qualcosa che li legherà a doppio filo per sempre. Bertolucci è esigente al limite della ferocia. Nessuna pausa o concessione. Due uomini dello staff tecnico vengono ricoverati per attacchi di ulcera e mentre Marlon, veterano del cinema, sopporta a stento la fatica, Maria, ingaggiata per soli $5,000, perde 10 kg. Ma il trauma più grande per lei è la celeberrima scena del burro, improvvisata e umiliante come niente al mondo. È incredibile. Ho recitato in 50 film nella mia carriera, incluso Professione Reporter di Antonioni. Ma tutti mi hanno sempre chiesto solo di Ultimo Tango. La scena del burro non era prevista nella sceneggiatura. Avrei potuto chiamare il mio agente o il mio avvocato e rifiutarmi, ma ero troppo giovane. Mi avvertirono un minuto prima di girarla. Mi misi a litigare, ma alla fine accettai. Era un'idea di Marlon, che mi disse: «Non preoccuparti, è solo un film». Ma durante la ripresa, anche se stavamo fingendo, le mie lacrime erano vere. Mi sono sentita umiliata e anche un po' violentata, sia da Marlon sia da Bertolucci. Alla prima parigina del film le uniche star sono Bertolucci e Brando. A Maria nessuno fa domande. La sala è piena di attori e registi e il clima è tesissimo. Jean-Luc Godard dopo 10 minuti si alza e se ne va. L'unica a congratularsi con Maria, con un delicato e affettuoso bacio sulla guancia, è Jean Seber, l'icona della Nouvelle Vague che pochi anni dopo si sarebbe suicidata. Forse Jean, nella sua disperazione, ha intuito quello che sta per succedere a quella ragazza fragile. Lo scandalo, la fama, la rovina. Where are you calling from? A booth in the Midwest. 10 years ago I bought you some cufflinks. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. Maria gira il mondo per promuovere il film. Vorrebbe che Marlon la facesse sentire importante, visto l'avventura che hanno condiviso con così tanta intimità. Ma lui la tiene a distanza. È ancora turbato da quello che le ha fatto. Ha dei sensi di colpa tali che non riesce nemmeno a chiederle scusa. Intanto lei, provocatoria come al solito, decide di scandalizzare fino in fondo. Decisi di stare al gioco. Dissi al New York Times di aver avuto già 50 uomini e 20 donne. Non era vero. Ma sentivo che era quello che volevano da me. Entrai nel personaggio della donna liberata sessualmente. E poi erano gli anni 70, l'AIDS non esisteva, la trasgressione era quotidiana. Bisessualità, rapporti promiscui, droghe di ogni tipo e ricoveri in cliniche psichiatriche sono la nuova realtà della Schneider dopo Ultimo Tango a Parigi. Il successo internazionale del film la fa cadere nel baratro. Nemmeno Brando esce immune da un'esperienza che lo sconvolgerà per sempre. La maledizione della censura tocca tutti. La pellicola viene sequestrata e messa al rogo. Il regista, condannato per offesa al comune senso del pudore, si vede anche negare il diritto di voto per 5 anni. Il produttore Alberto Grimaldi, il regista e il sottoscritto, Marlon Brando, forse anche Maria Schneider, siamo stati condannati a 2 mesi di prigione con la condizionale. Bertolucci si difende, proclamando la sua innocenza, sia di fronte alla giustizia, sia di fronte a Maria, che non riesce a perdonarlo per averla trattata da oggetto. Io lo dico, sono innocente, nel senso che non sapevo di essermi spinto così in là. Maria non dimentica il volto di Brando, le sue mani così forti addosso a lei, così ingenua, i mesi in cui avrebbe voluto parlargli con leggerezza, come non è mai riuscita a fare. A quest'uomo, che ha fatto dire ad Al Pacino, recitare con lui è come recitare con Dio, ha legato indissolubilmente il suo destino, nel bene e nel male. C'è una sola cosa da dire e fare: assolvere il film, che è entrato e resterà per sempre nella storia del cinema e nella sua cultura. E poi mi permise di conoscere Brando. Quando ero ormai più grande e andavo forse cercando sogni che Hollywood mi aveva offerto come compagnia, andai, anonima vagabonda, a vedere a Los Angeles, a Mulholland Drive, la casa dove abita Brando. Quell'uomo che sullo schermo tanto aveva condizionato, in qualche modo posseduto la mia vita. Volevo vederlo zappettare il suo giardino, prendere il sole. Un essere umano, un grande attore, messo sulla mia strada ancora piena di buche. Nell'ottobre del 1982, Ultimo Tango a Parigi viene proiettato a Roma durante una rassegna cinematografica dal titolo provocatorio Ladri di cinema. È possibile perché Bertolucci aveva per anni conservato clandestinamente una copia. Gli organizzatori vengono denunciati, ma ottengono la libertà per il film, che a distanza di 15 anni, nel 1987, viene riabilitato ufficialmente dalla censura e distribuito nelle sale. Ultimo Tango non mi appartiene più. Dopo tanti anni, un film non appartiene più a chi l'ha fatto. Dopo tanti anni,